In calo la crescita dei paesi OCSE, Italia fanalino di coda. In Libia il giorno della collera, tensione, morti anche in Bahrain, a Lampedusa nessun nuovo arrivo, ma l'isola resta al collasso. La tassa di soggiorno, una condizione dei comuni per il federalismo, il ministro Brambilla parla così all'apertura della BIT a Milano. Calano gli ascolti per Sanremo, ma Morandi resta da record, oltre i 10 milioni. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Rallenta la crescita nei paesi OCSE, lo avete sentito nei nostri titoli, così dicono i dati diffusi poco fa, e all'Italia tocca una posizione non invidiabile. Cominciamo allora questa edizione da qui con Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te e ai nostri ascoltatori. Infatti, come dicevi tu, dati non incoraggianti arrivano dall'OCSE. Secondo l'Istituto di Parigi, la crescita economica dei paesi membri nel quarto trimestre del 2010 è stata pari allo 0,4%, mentre nel trimestre precedente era stata pari allo 0,6%. Rallentamento ancora più forte in Italia, dove la ripresa del terzo trimestre è pari allo 0,1%, nel trimestre precedente si era registrato un più 0,3%. Resta quindi l'Italia al di sotto della media dei paesi dell'OCSE. In calo però, bisogna dire, anche la crescita in Germania, mentre la Francia resta stabile. Allargando lo sguardo, male il Giappone, dove la crescita è negativa, meno 0,3%, e anche la Gran Bretagna negativa per mezzo punto percentuale. In netta controtendenza invece gli Stati Uniti, dove il quarto trimestre ha visto una crescita pari allo 0,8%. Nell'ambito più ristretto però del G7, bisogna dire che la crescita più alta è stata quella della Germania, più 4%, la più bassa quella dell'Italia, più 1,3%. Ed è tutto. Grazie Valeria De Rosa. In Italia c'è da aggiungere che questa mattina c'è stato un vertice al Ministero dell'Economia, Tremonti ha incontrato quasi tutti i ministri, alla termine non ci sono state però dichiarazioni. A pesare è anche un'altra crisi, quella delle proteste che ormai dilagano contro i regimi arabi. Oggi il giorno della collera in Libia. Il giorno della collera in Libia, lanciato su Facebook per oggi, sembra destinato a rimanere solo virtuale. La notizia di diverse vittime, fino a 13 in scontri nella terza città del paese, Al-Baida, è stata smentita. A diffondere la notizia dei morti sarebbe stato un giornalista di base a Londra, mentre fonti definite attendibili dal confine tra Egitto e Cirenaica parlano di una manifestazione di poco conto con qualche ferito. Da Tripoli, Bengasi o altre città non arrivano voci di altre proteste. L'unica manifestazione annunciata per oggi, tra poco alle 13:30, è quella dei sostenitori di Gheddafi. Forse a scoraggiare le piazze la repressione decisa da parte di Gheddafi della rivolta a Bengasi scoppiata l'altra notte, forse invece la forte censura sull'informazione a impedire che arrivi l'eco di ciò che sta succedendo nelle città libiche. Notizie di scontri invece violenti arrivano dal Bahrain, piccolo arcipelago del Golfo Persico, dove nella notte i blindati hanno fatto irruzione nella piazza delle Perle a Manama, la capitale, uccidendo 5 manifestanti e disperdendo gli altri. Al Jazeera riferisce anche di molti feriti e di continue sirene di ambulanze. E anche in Yemen la protesta non accenna a esaurire. Nel quinto giorno consecutivo di manifestazioni almeno 5 persone sono rimaste ferite a Sana'a in nuovi scontri tra studenti antigovernativi e sostenitori del presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed aggiungere dall'Egitto la notizia arrivata proprio in questi istanti che i siti archeologici in Egitto riapriranno da domenica. Non apriranno invece ancora i musei, incluso il Museo Egizio del Cairo. È stata un'altra notte senza sbarchi, quella appena trascorsa a Lampedusa. Oggi il sindaco dell'isola è a Roma. Nel frattempo però proseguono nel canale di Sicilia le ricerche di una grossa imbarcazione avvistata durante una ricognizione aerea di fronte alle coste tunisine e poi sparita nel nulla. Noi andiamo allora da una parte e dall'altra delle sponde del Mediterraneo. Andiamo a Lampedusa, dove c'è Mariano Maugeri. Buongiorno. Buongiorno a voi. E in Tunisia, Roberto Bongiorni. Buongiorno. Allora, cominciamo da Lampedusa. Mariano, la situazione com'è oggi lì? Calma piatta. Si è anche fermato momentaneamente, dicono, questo libeccio, un vento fortissimo che soffia da sud-ovest, che ieri era potentissimo. E calma piatta però potrebbe preludere a non calma piatta su un altro fronte. Sì, anche se gli sbarchi per ora, come giustamente dicevate, si sono fermati, ma quello che è ancora più preoccupante è che si siano fermati i deflussi da Lampedusa verso i centri di identificazione. Oggi sono partite soltanto 60 persone, soprattutto donne e bambini, con il traghetto La Volta di Porto Empedocle. Ieri sono stati cancellati 4 voli che avrebbero dovuto portare in Sicilia e nel resto della penisola italiana altri 400 immigrati. immigrati. Quindi, come dire, ci si prepara ad una lunga attesa. Ormai Lampedusa, l'isola di Lampedusa è diventata un centro di accoglienza. E questo è vero che stempera le tensioni, però a lungo andare potrebbe crearne altre. Come sono i rapporti tra gli abitanti dell'isola e le migliaia di persone che sono lì? Per il momento ottimi. I ragazzi tunisini bivaccano e fumano come i tunisini, diciamo, come i turchi. Sono degli accaniti fumatori, consumano decine di tazze di caffè al giorno, hanno ancora una minima disponibilità in euro, perché come abbiamo scritto e raccontato ai giorni passati hanno una piccola scorta di denaro. Questo denaro però ovviamente via via si va esaurendo e quindi... E lì ci saranno i problemi. Accadrà, probabilmente. Resta con noi Mariano, perché dall'altra sponda del mare ci sono altri ragazzi tunisini che aspettano ancora di partire, o almeno è così. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Beh, in questo momento anche da questo versante è calma piatta. I controlli delle forze dell'ordine tunisine, dell'esercito e della polizia sono abbastanza serrati, soprattutto a Zarzis, dove il porto è monitorato attentamente e vi sono delle barriere. Beh, la notizia preoccupante è che abbiamo parlato con diversi pescatori, i quali nell'anonimato hanno confermato di aver venduto parecchie imbarcazioni ai trafficanti. E soprattutto ieri sera abbiamo di nuovo parlato con dei ragazzi tunisini, si tratta di giovani dai 17 ai 25 anni, respinti, repatriati in Tunisia e determinati a riprovare il viaggio ancora. Ci sono voci di possibili partenze, ma si pensa da dopo domenica o lunedì. Però, ripeto, i controlli delle forze delle autorità tunisine, gli accordi che con l'Italia sembrano però tenere sotto controllo il flusso. È molto difficile partire. Grazie allora ad entrambi, Mariano Maurigeri, Roberto Buongiorni. Sentivate a Lampedusa e invece sulle coste della Tunisia, giornata tranquilla, ma come ci diceva Mariano Maurigeri il mare si è calmato e quindi non è escluso che ricomincino nelle prossime ore le partenze. La situazione internazionale pesa anche sui conti del turismo e anche di questo si parla a Milano, dove oggi si è aperta la BIT, la tradizionale fiera del turismo di cui Radio 24 è radio ufficiale, dove c'è Paolo Piacenza. Buongiorno anche a te. Buongiorno Anna, buongiorno dalla fiera di Milano Ro. C'è anche la crisi politico-sociale, come hai detto, che sta investendo il Nord Africa. Tra le preoccupazioni degli operatori del turismo riuniti qui alla BIT, la Borsa Italiana del Turismo, che si è aperta questa mattina. Infatti gli operatori stanno offrendo, ipotizzando soluzioni alternative, mentre oggi la STOI, l'Associazione dei Tour Operatori Italiani, ha commentato con soddisfazione la notizia della riapertura delle destinazioni di Tunisia ed Egitto. Ma qui alla BIT la preoccupazione numero uno riguarda però il mercato italiano. Il settore in Italia sta vivendo una crisi lunga, complessa, anche se a detta di molti si vedono i primi timidi segnali di ripresa. Partiamo dai dati di Istat sul 2010, meno 12,4% su un 2009 già difficile per i viaggi, meno 7,8% per i pernottamenti, meno 13,4% per gli spostamenti interni, tutti dati negativi. Tuttavia Unioncamere sul primo quadrimestre 2011 registra un aumento del 14,1% degli italiani che andranno in vacanza entro aprile. È un piccolo segnale di speranza all'inizio di un anno che anche per quanto riguarda i turisti italiani si annuncia comunque molto complesso, probabilmente previsioni ancora negative. A trainare il settore nel 2011 saranno soprattutto i turisti stranieri, come ha confermato lo stesso ministro Brambilla, che poco fa ha tagliato il nastro della BIT. Sentiamo il ministro Brambilla. Noi abbiamo una debolezza di domanda interna, quindi i turisti italiani, che è dovuta ovviamente a quella che è una situazione congiunturale del 2010. Abbiamo però, d'altro canto, una forte ripresa di turisti internazionali. Allora, la fiera durerà 4 giorni, i primi 2, oggi e domani, sono dedicati agli operatori, quindi un grosso investimento sul business. Nel weekend la fiera sarà aperta anche al pubblico. Ed è tutto. Grazie anche a Paolo Piacenza. Dicevamo problemi sul fronte della crisi economica, problemi sul fronte delle crisi internazionali, e vediamo allora al quadro politico invece. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Governo e Parlamento lavorano senza cedere alle polemiche, così il ministro della giustizia Angelino Alfano sull'attività degli ultimi due giorni alla Camera. Per il ministro sono stati licenziati due provvedimenti in ambito penale che non riguardano le materie foriere di polemiche. Alfano si riferisce al disegno di legge che vieta il rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo e alla proposta di legge sui bambini in carcere. Sul fronte della maggioranza, anzi dell'opposizione, scusate, si indebolisce ancora Futuro e Libertà. Al Senato infatti il gruppo è a rischio, il senatore Giuseppe Menardi ha detto addio al partito di fine, che contava però solo 10 senatori, quelli necessari per formare un gruppo. A questo proposito interviene questa mattina Fabio Granata: abbiamo già pagato un prezzo troppo alto a chi stava con noi per frenarci. E il mille proroghe al Senato è stato votato proprio in ordine sparso da Futuro e Libertà. Una confusione che rafforza ovviamente il Premier e la maggioranza, il quale ieri ha ribadito, Silvio Berlusconi ha detto, di non essere per nulla preoccupato per il caso Ruby, anzi il Premier ha assicurato che la maggioranza alla Camera salirà a 315 deputati. Nell'opposizione si continua a discutere invece di leadership, dopo l'idea di Nichi Vendola di lanciare Rosy Bindi candidata Premier, freddi gli esponenti del PD, mentre Romano Prodi appoggia la candidatura. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie anche Elisabetta Sfiorito. Il nostro sondaggio di questa mattina, Mattino 24, vi abbiamo chiesto sul processo dopo il rinvio a giudizio di Berlusconi per il processo Ruby, si deve dimettere, ha risposto di sì il 64% dei nostri ascoltatori. E per riderci su sulla politica, da sabato 19 febbraio torna quella che è la vetrina della satira più tipica di questo periodo, vale a dire torna il carnevale di Viareggio. Quest'anno anche qui dedica i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma come sempre bersaglio saranno i politici. Il presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio al microfono di Adriana Fracchia. Apriremo con le cerimonie delle celebrazioni di 150 anni dell'Unità d'Italia, una cerimonia che rievocherà con Zucchitiano, con Garibaldi e Vittorio Emanuele II, con uno spettacolo pirotecnico musicale e poi 5 corsi mascherati, tutto nella solita satira politica pungente caratteristica del Carnevale di Viareggio, ma soprattutto anche per tecniche di costruzione nuove e altamente innovative. E soprattutto la peculiarità del Carnevale di quest'anno sarà il Carnevale del Martedì Grasso, festa della donna, 8 marzo, per la prima volta nella storia del Carnevale di Viareggio, un carnevale completamente notturna dalle 21 fino a mezzanotte con fuochi d'artificio. Le 13 e 16 minuti, le notizie di oggi di GR24. In calo la crescita nei paesi OCSE e la Germania ad ottenere i migliori risultati, Italia fanalino di coda tra i paesi del G7. In Libia il giorno della collera, tensioni e morti anche in Bahrain, a Lampedusa nessun nuovo arrivo ma l'isola resta al collasso. In fin di vita Steve Jobs, il guru della Apple avrebbe 6 settimane di vita. Calano gli ascolti per Sanremo ma Morandi resta da record. E allora cominciamo, riprendiamo proprio da qui con Marta Cagnola. Marta, com'è andata? Allora, eccoci Anna. Beh, innanzitutto la premessa è che siamo in un'atmosfera particolarmente solenne, perché è una Sanremo tutta tricolore, che oggi ha salutato gli ascolti della serata del festival. Hai detto ascolti un po' in calo, però è fisiologico nella seconda serata. Seconda serata è quella che attrae un po' meno. È quella che attrae un po' meno perché non c'è la curiosità della prima e poi ieri c'era anche insomma una questione di calcio in sospeso, insomma 12.056.000, 39,28%, il che significa una media superiore a quella del Festival di Bonolis, sempre seconda serata, e sui livelli di quello della Clerici. Morandi è contento, ma senti cosa ha detto, da maratoneta ha spiegato: siamo intorno al 20° chilometro, la crisi arriva al 32° e gli ultimi 10 chilometri sono duri. Sarà scaramantico? Quindi dice che bisogna ancora correre, bisogna ancora far fatica, però c'è grande apprensione, emozione e anche dispiegamento di mezzi per la puntata di questa sera. Questa sera 150 anni dell'Unità d'Italia è quella di cui abbiamo discusso nei mesi precedenti, prima di sapere tutto. Sono pronti? Sono pronti, c'è molta attesa ovviamente per quello che farà Roberto Benigni, farà l'esegesi dell'Inno di Mameli o come lui preferisce chiamarlo, del Canto degli Italiani. Ci saranno Luca e Paolo che probabilmente si daranno meno alla satira, faranno un omaggio a Giorgio Gaber e hanno detto che per loro sarà molto difficile pensare a fare i comici, hanno fatto un paragone un po' irriverente, hanno detto è come fare un film porno dopo che si è esibito Rocco Siffredi, perché loro dicevano dopo Benigni è proprio difficile fare i comici. E poi le interpretazioni dei Big, 14 canzoni che sono state scelte dagli stessi cantanti, quindi qualcuno ha lamentato l'assenza di Fabrizio De André, di Domenico Modugno, ma sono stati i cantanti a volere scegliere queste 14 canzoni, ce ne sarà una quindicesima perché questa sera canterà anche Gianni Morandi, che ha deciso anche di ringraziare un suo amico molto speciale, che purtroppo non sta bene, e che è Gianni Bella, cantando una delle ultime canzoni che Gianni Bella ha composto prima, purtroppo lo sappiamo, di avere un grave ictus l'anno scorso. Grazie a Marta Cagnola. Grazie, a presto. E da Sanremo ad un'altra notizia di un altro personaggio che altrettanto non sta bene, parliamo invece del guru della Apple. Notizie allarmanti, quelle sulla sua salute, che sono arrivate questa mattina. Mi ha raggiunto anche Enrico Pagliarini. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Jobs avrebbe solo 6 settimane di vita, così titolano i media, anche italiani ma soprattutto americani. La notizia è stata diffusa da un quotidiano americano, The National Enquirer, che pubblica sul proprio sito un paio di fotografie di uno scheletrico Steve Jobs mentre sale in macchina dopo aver fatto colazione, scrive il giornale, con la moglie e si dirige ad un centro oncologico californiano. La diagnosi di queste 6 settimane che mancherebbero insomma a Steve Jobs è stata fatta da un medico che non ha in cura Jobs, un medico a cui il giornale ha fatto vedere le fotografie. Certo è che tra gli addetti ai lavori in Silicon Valley, insomma, si sa che le condizioni di Jobs non sono certo buone. Ricordiamo che Jobs ha lasciato l'azienda a gennaio ed è la terza volta che è costretto ad assentarsi dalla Apple per motivi di salute a causa di un tumore al pancreas diagnosticato nel 2004. Al di là dei motivi umani, per il fatto anche che Jobs è un personaggio pubblico conosciuto da molti in tutto il mondo, perché ci si fanno tante domande sulle sue condizioni di salute? Perché le sorti e i successi della Apple sono strettamente legati a lui. Jobs è anche un fatto economico. Sì, esattamente. Jobs, che oggi lo ricordiamo ha 55 anni, ha fondato l'azienda, ma era uscito a metà degli anni 80 per una dozzina di anni, quindi fino al 96 sono stati, potremmo dire, gli anni peggiori della Apple. Nel 1996 Jobs torna a Cupertino e fino ad oggi tutti sanno quali sono i successi lanciati, prodotti lanciati. Cito alcuni giusto per ricordarli: l'iPod, l'iTunes, l'iPhone, l'iPad. Dal 1996, giusto, tu citavi i motivi economici. Ho fatto quando un lui calcolo, non c'è stato. Ho fatto un calcolo. Da quando lui è tornato, ho fatto un calcolo prima, il titolo in borsa ha guadagnato più del 5.000%. Cosa succederà adesso? Concludo. La prossima novità attesa per aprile, dovrebbe arrivare aprile, la seconda versione dell'iPad, su questo non dovrebbero esserci dubbi e non dovrebbero esserci rallentamenti. E dopo? E dopo, chi lo sa, sicuramente qualche cosa sapremo di più nel pomeriggio, perché secondo alcuni media americani Jobs dovrebbe partecipare oggi pomeriggio ad un incontro con Barack Obama a San Francisco. Vedremo se ci andrà. È confermata, non è ancora confermata, è ancora per il momento la sua presenza. Non è ancora confermata. E cercheremo comunque magari di saperne di più. Grazie anche a Enrico Pagliarini. Voltiamo pagina, apriamo ora invece la pagina della cronaca, cominciando dal Vietnam, dove un barcone è naufragato questa mattina. A bordo c'erano anche 2 turisti italiani. Sono salvi 2 italiani che erano a bordo del battello affondato nella baia di Ha Long, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e meta di milioni di turisti all'anno. Salvi e fortunati, dice l'ambasciatore italiano ad Hanoi, Lorenzo Angeloni, perché erano già svegli al momento del naufragio e si sono buttati in acqua per tempo, evitando il peggio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Probabilmente, spiega ancora l'ambasciatore, ha ceduto la sentina e l'imbarcazione ha cominciato ad affondare, non lasciando scampo a coloro che ancora dormivano nelle cuccette. Le vittime accertate sono 12, 10 stranieri e 2 vietnamiti. Gli italiani, che nel naufragio hanno perso i documenti e tutti gli effetti personali, saranno ora accompagnati all'ambasciata di Hanoi per poi rientrare a casa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E un brutale agguato c'è stato nella notte in Calabria. Madre e figlia uccise nella loro casa in provincia di Cosenza con una ferocia che sconvolge anche gli investigatori. Sarebbero state trucidate per una vendetta di 'ndrangheta. Rosellina Intrieri, di 45 anni, e sua figlia Barbara, 26enne. Erano la cognata e la nipote di Aldo De Marco, il commerciante che lo scorso 17 gennaio a Spezzano Albanese, al culmine di una lite per un parcheggio, ha sparato e ucciso Domenico Presta, 22 anni, figlio del latitante Franco Presta, considerato uno spietato killer di mafia. I sicari, almeno 2, sono entrati in azione ieri sera a San Lorenzo del Vallo. Sono arrivati davanti la porta di casa delle due donne, un condominio popolare, e hanno iniziato a far fuoco dal pianerottolo abbattendo la porta. La prima a essere raggiunta dai colpi è stata la madre Rosellina, poi la figlia Barbara, che ha tentato invano di fuggire dal balcone. Ferito, ma fuori pericolo, un altro figlio della donna, Silos De Marco, ricoverato in ospedale. In casa c'era anche il padre del ragazzo, era ubriaco e dormiva in un'altra stanza. Probabilmente si è salvato perché i killer non lo hanno trovato. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le acque del fiume Tanagro la notte scorsa hanno tracimato allargando i terreni in una decina di abitazioni in località Sant'Agata, nel comune di Sala Consilina, a sud di Salerno. No paura per gli abitanti che si sono svegliati con le abitazioni invase d'acqua e fango. Pur non essendo piovuto in maniera abbondante, le acque del Tanagro sono fuoriuscite dal letto, in quanto a seguito delle alluvioni, ricorderete, dello scorso mese di novembre, in quel tratto non esistono più argini. Anche le casse del Vaticano piangono per la crisi. Oggi si è riunito il Consiglio dei Cardinali per il bilancio 2011 della Santa Sede. Nel comunicato si parla di chiari segnali di incertezza. Apriamo la pagina dello sport. Mondiale di sci di Garmisch in Germania. Gigante femminile tormentato dalla nebbia, ma alla fine prima manche scattata alle 12 con ottime notizie per le azzurre. In testa infatti la slovena Matze, ma al secondo posto c'è la ventenne Federica Brignone, staccata di appena 34 centesimi. Al terzo posto l'austriaca Görlg, bene anche Manuela Mölg, quinta, e Denise Carbon, che è nona. Seconda manche alle via alle 15 e il tracciatore sarà proprio il tecnico delle italiane, Stefano Costazza. E ora parliamo invece di calcio e TV. Uno Stato può vietare la trasmissione in esclusiva su Pay TV dei mondiali o degli europei di calcio. È quanto stabilisce una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, per il quale di fronte a questi eventi di particolare rilevanza pubblica deve prevalere il diritto all'informazione e quello di tutti di poter accedere liberamente alle partite. Tutto nasce da un ricorso di FIFA e UEFA contro la Commissione Europea, che aveva dato ragione a Belgio e Regno Unito sul divieto di trasmettere le partite dei due prestigiosi tornei solo sulle TV a pagamento. Secondo UEFA e FIFA, tale divieto di esclusiva per le pay TV sarebbe stato giustificabile solamente per semifinali, finale e partite della squadra ospitante del mondiale e per partita d'apertura e finale degli europei. Teoria che i magistrati hanno respinto. In Italia, lo sappiamo, la Rai non ha più il monopolio di mondiali ed europei di calcio. I diritti TV dei mondiali 2006 e 2010, quelli di Germania e Sudafrica, sono stati acquistati dalla Pay TV satellitare Sky Italia e in parte rivenduti alla Rai. Stesso accordo tra FIFA, Sky e Rai in vista dei mondiali di Brasile 2014. FIFA e UEFA ora hanno 2 mesi di tempo per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora veniamo proprio al calcio giocato. Dopo le sconfitte di Milan e Roma in Champions, impegno europeo questa sera per il Napoli, che ospita gli spagnoli del Villarreal nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico Mazzari lancia Cribari e Mascara titolari, si affida al bomber Cavani e all'estro di Lavezzi. Fischio d'inizio alle 20.45, sentiamo proprio Mazzari. È bello vedere questo entusiasmo che abbiamo creato in noi stessi, questa autostima, e soprattutto, che è poi il bello del calcio, anche aver dato questo, trasmesso questo entusiasmo anche alla nostra gente, no? Ci sarà lo stadio pieno, grande fascino dopo tanti anni. La piazza di Napoli si ritrova a partecipare come attore protagonista in sfide di altissimo livello. E ieri sera intanto nei recuperi di campionato della 17esima di A, Sampdoria Genoa 0-1, mentre l'Inter ha vinto a Firenze per 2-1. E chiudiamo così anche questa edizione di GR24. La prossima, come sempre, alle 14. Ora c'è invece Italia in controluce. Da Filippo Aureggi in regia e da Anna Migliorati, una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.